Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Per anni ha riempito le caselle di posta elettronica con mail che chiedevano la rimozione dei crocifissi dalle aule dei tribunali, utilizzando immagini dove la croce era sovrapposta alla svastica e servendosi di espressioni come derattizzazione dai crocifissi. Ora il giudice Luigi Tosti, che da anni per protesta si rifiuta di tenere udienza, è stato rimosso dall'incarico. Come i vampiri, il giudice Luigi Tosti non sopporta la vista del crocifisso. Ma non è per quel motivo che venerdì scorso il Consiglio Superiore della Magistratura lo ha rimosso dall'ordine giudiziario. In realtà, il drastico provvedimento dell'organo di autogoverno dei magistrati è motivato dal suo rifiuto di tenere udienza fra il maggio 2005 e il gennaio 2006. Tutte le assenze erano state giustificate da Tosti con la presenza del crocifisso in aula. Da 4 anni gli avevano anche sospeso lo stipendio e le funzioni. Ma lui aveva promesso che non avrebbe indossato la toga finché il simbolo sacro non fosse stato rimosso da ogni singola aula. Aveva studiato pure una soluzione fai da te al tribunale di Camerino, dove era incardinato. Nel 2004, al posto di Gesù Cristo, aveva appiccicato al muro alcuni cartelli dell'Unione Atei Anticlericali Razionalisti, l'UAR, su cui campeggiava la scritta «Apriamo i muri». I colleghi, a loro volta, avevano staccato i proclami di Tosti su precisa indicazione del presidente del tribunale, che peraltro gli aveva messo a disposizione un'aula priva di simboli religiosi. Un compromesso inaccettabile per l'alfiere dell'ateismo. Non aveva impedito lo svolgimento regolare dei processi solo perché era stato sostituito e le udienze erano state regolarmente celebrate. Così, in sede penale, era stato assolto dall'accusa di omissione di atti d'ufficio. Ma il suo rifiuto di compiere atti connessi all'attività giudiziaria ha spinto la sezione disciplinare di Palazzo dei Marescialli a ricorrere alla decisione di venerdì. Il Tribunale delle Toghe ha dunque accolto la richiesta avanzata nella requisitoria dal sostituto PG di Cassazione Edoardo Scardaccione di rimuovere il giudice di Camerino dalla magistratura. Già in passato Tosti era stato sanzionato in via disciplinare con un ammonimento confermato dalle sezioni unite della Suprema Corte per una lettera inviata all'allora guardasigilli Clemente Mastella, ritenuta offensiva nei confronti dei magistrati dell'Aquila, di fronte ai quali si stava svolgendo il processo a carico dell'ex giudice per omissione di atti d'ufficio, che non avevano rimosso il crocifisso dall'aula d'udienza. Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte aveva anche sottolineato che la questione del crocifisso nelle aule giudiziarie ha una sua sostanziale dignità e meriterebbe un adeguato approfondimento, e che la circolare del Ministero della Giustizia risalente al 1926 imponeva la presenza del simbolo religioso nelle aule, tenuto anche conto dell'epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione. Stavolta ci si è astenuti dal merito della questione e il magistrato è stato giudicato per essersi rifiutato di tenere comunque udienza fino a quando in tutti i tribunali d'Italia non fossero stati rimossi i crocifissi, ha commentato il vicepresidente del CSM Nicola Mancino. La vicenda, nata con l'intenzione di risolvere una questione di principio, si era via via complicata, ricostruisce Mancino, quando Tosti si era rifiutato di tenere udienza anche dopo che il presidente del tribunale gli aveva messo a disposizione un'aula senza il crocifisso, con ciò venendo meno all'obbligo deontologico e ai doveri assunti in qualità di magistrato che gli impongono di prestare servizio. Ma non si poteva andare oltre perché, ricorda Mancino, il CSM non è né la Corte Costituzionale né la Corte Europea. Non doveva risolvere, e in effetti non ha risolto la questione della legittimità o meno di tenere il crocifisso in un'aula giudiziaria. Davanti la sezione disciplinare, Tosti si è difeso da solo senza l'ausilio di un avvocato e un collega magistrato. Durante l'udienza, davanti al palazzo dei marescialli, a sostegno del magistrato, hanno manifestato alcuni radicali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Andrea Morigi, Il giudice toglie il crocifisso, il CSM gli toglie la toga, da Libero del 23 gennaio. Parrocchie digitali, notizie pontificie sull'iPhone, libri di preghiera online. Nel messaggio annuale sui mass media, Papa Benedetto XVI invita i giovani preti ad essere presenti nel mondo digitale. Il Papa incarica i cyberpreti di portare la parola di Dio nel web, mentre il Vaticano annuncia che da internet stanno arrivando le nuove vocazioni. Gesù chiese ai discepoli di essere suoi testimoni fino ai confini del mondo. Ora Benedetto XVI esorta i sacerdoti a portare il Vangelo fino ai confini della rete, vista non più come una minaccia alla fede, ma come un'opportunità per raggiungere uomini di tutte le culture e le razze, atei compresi. Nel messaggio annuale sui mass media, il pontefice spiega che la Chiesa si trova all'inizio di una storia nuova, l'evangelizzazione del continente digitale. Blog, social network, siti. Nel messaggio sono elencate le nuove strade del cattolicesimo. Anche sulle frontiere telematiche, raccomanda il Papa, deve emergere che l'attenzione amorevole di Dio in Cristo, per noi, non è una cosa del passato e neppure una teoria erudita, ma una realtà del tutto concreta e attuale. Spetta ai sacerdoti offrire agli uomini che vivono questo nostro tempo digitale, anche non credenti e soprattutto giovani, i segni necessari per riconoscere il Signore. Solo così la parola di Dio potrà prendere il largo tra gli innumerevoli crocevia creati dal fitto intreccio delle autostrade che solcano il cyberspazio e affermare il diritto di cittadinanza di Dio in ogni epoca. Un atteggiamento ottimista che non nasconde le difficoltà. I nuovi cyberpreti devono essere presenti nel mondo digitale, nella costante fedeltà al Vangelo e non limitarsi a considerare il web uno spazio da occupare. Va coniugato l'uso opportuno e competente di tali strumenti, acquisito anche nel periodo di formazione, con una solida preparazione teologica e una spiccata spiritualità sacerdotale, alimentata dal continuo colloquio con il Signore. La sfida lanciata dal Papa fa tremare una parte di Chiesa. Ci sono tanti religiosi e fedeli anziani, tuttora diffidenti verso le nuove tecnologie. Noi non diciamo che ogni prete deve aprire un blog o un sito interattivo, ma che usino la rete con la gioia e l'entusiasmo della fede, spiega il ministro vaticano delle comunicazioni, Celli. Le parrocchie digitali costituiscono una chance decisiva per certe zone del mondo dove i sacerdoti sono pochi e i fedeli isolati, ma anche per le zone più popolate, visto che chi ci ha provato dice di avere più fedeli in rete che in chiesa la domenica. Tuttavia, le community della fede non potranno mai sostituirsi alle parrocchie reali, alla preghiera, al contatto umano, anche perché i sacramenti devono essere amministrati di persona. Già è possibile mandare messaggi a Josef Ratzinger, ricevendo discorsi, fotografie, attraverso il portale www.popetoyou.net, un brand informativo dedicato agli amanti dei social network. Il Vaticano offre anche il link per ricevere notizie pontificie sugli iPhone, scaricare l'iBrevary, collegarsi a una pagina chiamata Praybook, dove i navigatori condividono le tradizionali preghiere e i testi della liturgia delle ore. Mai un vicario di Cristo si era rivolto ai fedeli in modo così informale, confidenziale, high-tech. La strategia vaticana è utilizzare ogni strumento tecnologico per divulgare la fede e la parola del Papa. Negli SMS si firma B16 e scrive U per abbreviare U, come i teenager che usano X al posto di per, o TVB invece di Ti voglio bene. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Giacomo Galeazzi, In missione sul web per conto di Dio, dalla Stampa del 24 gennaio. Ospite di un festival letterario in India, la scrittrice somala Ayan Hirsi Ali, da anni impegnata nella difesa dei diritti umani, respinge la teoria secondo cui l'impegno degli Stati Uniti nei paesi più poveri sarebbe solo un modo per esportare democrazia ad ogni costo. Ayan Hirsi Ali, L'infedele, come dice il titolo della sua autobiografia pubblicata nel 2006 da Rizzoli, è arrivata domenica a sorpresa, per ragioni di sicurezza, al festival letterario di Jaipur, in India. Nessun cenno nei programmi ufficiali, ma la sala dove la scrittrice somala è stata intervistata ci ha messo poco a riempirsi. Perché dovremmo distinguere, chiede una giornalista indiana, tra i morti in nome dell'Islam e quelli in nome della democrazia? Ayan risponde fredda: non vedo morti provocati dall'America in nome della democrazia. Si ferma, poi riprende: gli Stati Uniti sono stati attaccati l'11 settembre 2001 e hanno reagito. Quello che vedo piuttosto nella storia recente americana è il continuo aiuto economico ai paesi più poveri e l'invito alle nazioni islamiche ad adottare la democrazia. Un'idea che proprio non piace all'Islam. La giornalista cerca di replicare, ma Ayan riprende la parola per smontare il complesso islamico dell'accerchiamento. L'Islam non è affatto sotto attacco, sostiene la scrittrice, fuggita in Olanda dopo essere stata costretta a un matrimonio combinato, e quindi negli Stati Uniti, dopo l'uccisione del regista Theo Van Gogh, al cui ultimo film, Submission, lei aveva collaborato come sceneggiatrice. Per rendersi conto di questa realtà, che è sotto gli occhi di tutti, sostiene, non bisogna guardare le cose soltanto dal punto di vista occidentale, americano, ma da una prospettiva globale. L'Islam fondamentalista fa vittime anche in Cina e in India. Cina e India oggi subiscono la stessa offensiva che subisce l'America. Voi lo sapete, vero? Essere stata sottoposta alla violenza dell'infibulazione da bambina, aver dovuto subire nozze combinate dal padre, ha portato Ayan Hirsi Ali sulla via dell'ateismo e di un femminismo altrettanto convinto. Perché, dice la scrittrice, nell'Occidente donna e uomo sono uguali prima della legge. Nell'Islam no. La donna deve obbedire al Corano e al proprio guardiano, l'uomo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Dino Messina, Ayan Hirsi Ali, non vedo morti fatti dagli USA per esportare la democrazia, dal Corriere della Sera del 25 gennaio. Letture di Radio 24. Si dice chiamare qualcuno al cellulare o sul cellulare? Si può usare il plurale di latte? Qual è il plurale di pronto soccorso? Sono sempre più numerosi gli italiani che si rivolgono all'Accademia della Crusca per sciogliere i dubbi sul corretto utilizzo della loro lingua. C'è una finestra da cui si vede l'italiano che ci tormenta, i dubbi di ortografia che fatichiamo a confessare, i neologismi che maneggiamo incerti. Si scrive qual è senza apostrofo o qual è con l'apostrofo. Si dice cioccolata o cioccolato. Si può usare per gli immigrati il termine respingimenti? E in un tema la parola tronista? Il servizio di pronto soccorso sulla nostra lingua tutti i giorni raccoglie in una casella di posta elettronica sul sito dell'Accademia della Crusca 10 o 20 cose che non sappiamo sulle parole e sulla grammatica della lingua italiana. Una piccola redazione di esperti a Firenze risponde online o via email gratuitamente. Nel 2009 l'hanno fatto 900 volte, spiega Raffaella Setti, docente a contratto alla Facoltà di Scienze della Formazione. Un aumento progressivo delle richieste a dimostrazione che la lingua è un terreno minato. A inviare quesiti non sono soltanto insegnanti, docenti universitari, persone che frequentano abitualmente il sito del principale istituto che si occupa di ricerche sull'italiano, ma famiglie, studenti, professionisti e curiosi, persone anche lontane dagli studi umanistici. Una signora di Bologna, per esempio, vuole sapere se ha ragione la maestra di sua figlia nel dire che si scrive sognando con la I e non sognando senza I. Un avvocato di Genova chiede se sulla targa del suo studio la parola avvocato meriti o meno la maiuscola. Un signore di Tolentino domanda se è sempre valido il principio di togliere l'apostrofo a fine riga e mettere la vocale dell'articolo. Un aspirante giornalista di Roma desidera sapere se ha un plurale pronto soccorso. Un insegnante di Cagliari si lamenta dell'uso della doppia congiunzione avversativa mentre invece, che ritiene sbagliata al pari di ma però. Eppure i miei alunni obiettano di averla sentita in contesti colti. La nostra consulenza linguistica è uno spaccato interessante per vedere dove l'italiano fa paura, spiega la presidente dell'Accademia Nicoletta Maraschio. L'ortografia è in testa, ma ci mandano pure molti quesiti sul lessico e sui neologismi. Sul sito abbiamo una sezione apposita dove troviamo i significati delle parole nuove, da videofonino a bioterrorismo a sitografia. Lo sportello sulla lingua è un servizio che nasce sulla carta, dalla rivista La Crusca per voi, e che successivamente viene trasferito anche in rete. Nei prossimi mesi, per la casa editrice Le Lettere, quel dialogo via mail con gli esperti dell'Accademia diventerà un volume dal titolo La Crusca risponde. Ogni settimana mettiamo online una risposta, spiega Raffaella Setti, che assieme a Matilde Paoli guida la redazione. Molte domande sono ricorrenti e allora rimandiamo al motore di ricerca che c'è all'interno del sito, curato da Marco Biffi, che permette di ripescare in archivio le risposte date in passato. Molto gettonati i dubbi sui congiuntivi, sull'uso di ed o ad o sul plurale di euro. Poi ci sono le incertezze sempre verdi sui femminili delle professioni. Si dice l'avvocata o l'avvocatessa, la presidentessa o la presidente. Io preferisco la presidente, spiega Maraschio. La cosa importante è comunque non oscurare il genere. Televisione, internet e giornali hanno una grossa influenza sulla circolazione delle parole. Dopo alcune campagne pubblicitarie ci chiedevano se fosse corretto utilizzare il plurale di latte, e in effetti si può, se si intendono diverse qualità di latti. Altri ci hanno consultato sulla differenza fra immigrato o migrante, riprende Raffaella Setti. Il fatto è che la lingua è in continuo mutamento e l'uso comune finisce col modificare la grammatica. Ormai si accetta gli al posto di loro, o lui, lei, impiegati come soggetti, spiegano i linguisti. Quello che ci preoccupa, dice Nicoletta Maraschio, è la tendenza ad abbandonare l'uso corretto della nostra lingua. La semplificazione sintattica e lessicale rischia di minare le fondamenta della nostra società e della cultura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Laura Montanardi, L'italiano sconosciuto. Sul web, La Crusca scioglie tutti i dubbi. Da Repubblica del 18 gennaio. Quante volte ci capita di sentire un motivetto musicale che poi non riusciamo più a toglierci dalla testa? Adesso una ricerca scientifica rivela i segreti del tormentone. Più si cerca di scansarlo e più si insiste. Di fronte al ritornello «Non riesco a cacciarlo via dalla testa», non a caso un titolo della cantante Kylie Minogue, la tecnica migliore è allora quella di arrendersi. Di assoggettarsi alla melodia che suona e risuona compulsivamente nel nostro cervello fino ad arrivare a schiarirsi la gola e iniziare a cantarla davvero. La versione reale, nella maggior parte dei casi, sarà talmente repellente da scacciare il disco interno che si era incantato. Paradossi a parte, la psicologia ha trovato nella scienza del tormentone un campo di ricerca assai più ricco e misterioso di quel che pensasse. E Phil Beeman, professore dell'Università di Reading, ha deciso di far uscire il fenomeno del disco incantato dall'aneddotica dedicandogli una ricerca ora pubblicata sul British Journal of Psychology. Come per ogni pensiero ossessivo, spiega nell'articolo scritto insieme al collega Tim Williams, i tentativi di esercitare il controllo della mente per cancellarli non fanno che rafforzare il pensiero stesso. Meglio allora, suggerisce il ricercatore, tenersi il ritornello e aspettare che passi da sé. Beeman e Williams hanno cercato di penetrare nel segreto degli Ohrwurm, il termine tedesco usato per primo per descrivere i bachi dell'orecchio che si insinuano in fondo alla testa, in modo molto divertente. Andando a intervistare un centinaio di persone nella sala d'aspetto della stazione dei treni di Reading o tra i viali dei Forbury Gardens. Praticamente tutti, le statistiche variano tra il 97 e il 99%, avevano sperimentato il fenomeno del baco, almeno una volta nella vita. E i caratteri ansiosi o nevrotici erano più suscettibili all'infezione. Ovviamente i motivetti delle pubblicità o di alcuni show televisivi risultavano in testa alla classifica delle musiche più appiccicose, insieme a vari successi di pop. Raramente i bachi di due persone coincidevano o la stessa persona veniva contagiata due volte dallo stesso tarlo. Tra i tentativi di cacciare il tormentone, alcuni riferivano delle strategie sui generis: meditare, mettersi a lavorare, andare a dormire, bere alcol. In uno studio precedente, il ricercatore di marketing dell'Università di Cincinnati, James Kellaris, citava anche l'annusare cannella, evidentemente una strategia chiodo schiaccia chiodo in cui una sensazione olfattiva ne cancella un'altra uditiva, o il mettersi a praticare arti marziali. Ogni strategia probabilmente risulterà fallimentare, Ma non è questo il punto, visto che i tormentoni spariscono in genere dopo uno o due giorni al massimo e raramente sono vissuti come un problema. Lo sguardo gettato da Beeman e Williams nella tana dei bachi ha scoperto piuttosto altri aspetti interessanti, come quello che i tormentoni riprodotti dalla corteccia uditiva del cervello, senza coinvolgimento alcuno dell'apparato auricolare, possono durare più a lungo rispetto alla capacità della nostra memoria uditiva, che consiste nel saper ripetere, questa volta in maniera consapevole e controllata, un brano appena ascoltato. Probabilmente, spiegano i due psicologi, i tormentoni scattano riattivando dei meccanismi della memoria a lungo termine e non semplicemente facendo ricorso alla memoria uditiva, che ricade invece fra i sistemi di memorizzazione a breve termine. Questa spiegazione concorda anche con un'altra osservazione degli psicologi di Reading, secondo cui non basta che il motivetto sia accattivante e ben congegnato. Affinché diventi un baco, deve essere anche molto familiare. E così, fra gli adulti intervistati nel parco e nella stazione della città inglese, non è mancato chi abbia citato filastrocche per bambini o canzoni di Natale fra i tormentoni ripescati da chissà quale anfratto dell'iPod del nostro cervello. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Elena Dusi, Ritornelli, scoperto il segreto del tormentone, ecco perché ci entra nel cervello, da Repubblica del 7 gennaio. Al concorso per un posto da vigile urbano nel comune di Pitigliano, Grosseto, non è stato ammesso alcun candidato alla prova orale, colpa dei troppi errori di grammatica e ortografia. Erano arrivate 238 domande, ma alla prova scritta si erano presentati solo in 61. 30 se ne sono andati dopo aver letto la traccia dello scritto, gli altri 31 hanno fatto l'esame e sono stati bocciati. Era già successo ad Orbetello, in un concorso per un posto da dirigente, al quale avevano partecipato 24 dottori in giurisprudenza. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Leon Bertoletti da Libero del 15 gennaio.